Flash Bit di Giulia Crivelli. Multitasking. Multitasking news. Questa è la definizione data da Business of Fashion di Karin Reutfeld, ex direttore di Vogue Francia e personaggio molto noto e ammirato nel mondo della moda europeo e non solo. Business of Fashion è un vero e proprio magazine online. Il titolo completo dell'articolo dedicato a Karin, pubblicato alla vigilia della Fashion Week di Milano, era Karin Reutfeld Reborn. In her post-Vogue incarnation, the multitasking muse, grandmother, stylist, editor and entrepreneur feels more liberated to be herself, ovvero la rinascita di Karin Reutfeld nella sua incarnazione del dopo Vogue, la musa multitasking, nonna, stylist, direttore e imprenditrice si sente più libera di essere se stessa. Cominciamo da multitasking, parola da tempo usata anche in italiano. Task significa compito, multitask o multitasking è diventato un aggettivo che indica la capacità di svolgere più attività allo stesso tempo. Fu usato per la prima volta nel 1965 dalla IBM per indicare un sistema operativo che permetteva di eseguire più programmi contemporaneamente. Per un periodo si decise nel mondo dell'informatica di tradurlo con multiprocessualità. Ma presto si usò solo l'originale americano. Nel tempo l'aggettivo si è diffuso nella sua accezione figurata, per così dire, per indicare persone, in particolare le donne, che riescono o cercano di assolvere più compiti o ricoprire più ruoli contemporaneamente. E così torniamo a Karin Reutfeld e grazie al titolo di Business of Fashion scopriamo due false friends, cioè parole che sembrano potersi tradurre facilmente in italiano ma invece inducono in errore. Editor non significa editore, che si traduce con publisher, bensì direttore di un giornale o di una rivista, qualifica che può essere rafforzata in vari modi, editor in chief ad esempio o editor at large. Stylist non significa stilista, si dice designer, e non si può tradurre in italiano. Con la parola si indica quella figura professionale che nel mondo della moda si occupa di preparare il look di una modella per una sfilata, un servizio fotografico, un'uscita mondana, e vale anche magari per le attrici, anche le attrici hanno gli stylist o le stylist. È insomma colei o colui che mette insieme i vari pezzi di un look. Da notare infine che entrepreneur, parola rubata dagli americani ai francesi, è entrata a pieno titolo nel vocabolario ufficiale e si traduce con imprenditore.